Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ci siamo, sono le 15 e 35 secondi a Radio 24, un nuovo appuntamento con il sabato del villaggio. È il sabato pomeriggio di Radio 24, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Ci sarà tutto in questa puntata del sabato del villaggio. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per tenerci compagnia ci sono le solite coordinate. Il numero per SMS e WhatsApp 349 238 6666, ma tanto so che l'avete memorizzato nei vostri telefonini e smartphone. E poi il mio account di Twitter, @MartaCagnola, che è anche il mio account di Instagram. Ho appena postato la foto col primo degli ospiti che ci verrà a trovare questo sabato pomeriggio, da non perdere. Ci saranno dei grandi, grandissimi ospiti, ma non ve lo svelo. Potete andare sui nostri social a vederli, @MartaCagnola per Twitter e per Instagram, cancelletto ISDV come hashtag, le iniziali di Il sabato del villaggio. Ma gli argomenti della prima ora li vogliamo sapere? Ma sì, dai, diciamoli. Allora, l'appuntamento con le tecnologie, con Enrico Pagliarini, due nomi in primo piano. Ho chiesto di spiegarci due cose, due parole di cui si è parlato moltissimo questa settimana: geoblocking e WannaCry. Cosa sono? Beh, lo scopriremo tra poco. Parleremo invece di vini con il nostro gastronauta e, come sempre, tutte le uscite al cinema del fine settimana. Ma partiamo subito con la nuova fissazione del momento. Addio e grazie per il pesce. So che gli piacerà molto questa citazione, perché il suo account di Twitter è @addio e grazie per. Quando dobbiamo parlare di tecnologia, gadget tecnologici o anche gadget to cure, ma anche di fumetti, insomma, diciamocelo, di queste cose un po' da nerd che ci appassionano tantissimo, io penso subito a lui, perché so che come me si fa prendere da queste piccole manie, se non altro per capire di cosa si tratta, perché ci facciamo coinvolgere da queste scemenze. Beh, questa volta parliamo veramente di una scemenza. Intanto lo saluto e gli do il bentornato al sabato del villaggio, Emilio Cozzi. Ciao Emilio. Ciao Marta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Addio, grazie per, appunto, guida galattica per autostoppisti. Esatto. Allora, diciamolo, qual è la nuova mania che dobbiamo scoprire in fatto di gadget non tecnologico, questa volta gadget to cure? Che cosa dobbiamo... Cioè il fidget spinner, cara Marta. Che tu già hai e che immagino a breve avranno tutti. Allora, il fidget spinner, signore, allora è un aggeggino che potrebbe essere paragonato, non lo so, alla mania dello yo-yo, di queste cosette un po' di abilità, ma non di grande abilità, ecco, diciamo, per giochicchiarci e da collezionare, è così? Concordo, mi sono venuti in mente di primo acchito, e questo ahimè dice anche, come dire, la mia importanza anagrafica, a parte i puffi, e dall'altra il cubo di Rubik, certo, che erano due aggeggi, insomma, che appunto erano dei passatempi, nel caso del cubo di Rubik anche piuttosto, come dire, importanti per ciò che riguardava l'impegno. C'erano dei campionati mondiali, c'è gente che riesce a comporne tutte le facce colorate senza guardare il cubo, cioè diventerà una cosa del genere il nostro fidget spinner. Come dicevi tu, cos'è? Sostanzialmente è un cuscinetto a sfera, uh-huh, attorno al quale è montata un'elica a più lame, possono essere 2, 4, addirittura ci sono modelli con tantissime lame, che semplicemente tenuta tra l'indice e il pollice con una mano, viene fatta girare con l'altra mano, e il, come dire, l'abilità consiste nel farla girare a lungo, per un più tempo possibile. Tu immagina che questa cosa, come dire, può suscitare dei tornadi in classe, io penso. Certo. Una cosa pazzesca, capito? Allora, io ne ho sentito parlare come di antistress. Adesso spiegatemi come può essere antistress una roba che già mi sta facendo innervosire tantissimo. Però, brava. No, come dire, l'aneddoto è curioso e anche più serio di quanto poi in realtà il gioco non dica, perché il buon fidget spinner fu brevettato, non solo inventato, da tale Catherine Ettinger, che è un ingegnere americano, ovviamente americana, parliamo di una donna, che se lo inventò nel 93 addirittura per in qualche modo aiutare la figlia, che era affetta da un grave disturbo muscolare, in qualche modo per aiutarla a coordinare meglio i movimenti e anche per distrarla, appunto, per ridurre lo stato d'ansia e di stress. Benissimo, lo brevettò in realtà nel 97, avendolo inventato 4 anni prima, lo propose a tantissime aziende di giocattoli che a ruota lo rifiutarono, e tanto che qualche anno dopo, quando il brevetto scadde, non lo rinnovò, per quanto no. $400 rinnovarlo. Benissimo, fine anno scorso Forbes, la rivista che tutti conosciamo per il prestigio, indica questo giocattolino come la moda dell'anno da tenersi in ufficio. Come dire, la conseguenza, il resoconto successivo è quello che stiamo dicendo adesso, cioè tutti oggi lo vogliono. La poverina Ettinger non ne fattura neanche un euro, non neanche ci un posso dollaro, credere, la cosa diventa una mania. Esatto. Per lei non è un antistress, diciamo, alla fine per lei non lo è stato, neanche per gli altri, ecco, chiariamolo subito questa cosa, il fatto che riduca l'ansia o che riduca lo stress non ha alcun rilievo scientifico, anzi più di una scuola, perché appunto lo yo-yo, chiamiamolo così, è già diffuso negli Stati Uniti, è già una moda imperante in Gran Bretagna ed è arrivata in Italia da poco, pare addirittura che sia stata già vietata perché in realtà disturba, per esempio in classe distrae i ragazzi che appunto cominciano a condividere sui propri social e le loro performance, cominciano a condividersi tutorial per far andare più velocemente e più a lungo l'aggeggio, per cui tutto fuorché, come dire, antidistrattivo, è proprio il contrario, distrae e in qualche modo aumenta lo stress, se non altro dei professori, ecco. Ecco, sì, perché è per la prima volta una mania di questo genere si allea coi social. Tantissimo, e anche con appunto in qualche modo un impeto collezionistico, ci sono già tutte le foge, tutte le forme, bandiere americane, bandiere italiane, appunto più o meno lame, ho trovato un modello a forma di logo di Batman, quindi pipistrello. L'hai già comprato? Immagina, esattamente. Ok, non avevo dubbi. Immagina quanto questa cosa possa avere successo. Detto questo, c'è da aggiungere il fatto che costi molto poco, si trovano modelli in rete che vanno addirittura dai 90 centesimi in su, poi appunto dipende dal materiale, dipende dalla fattura, ce ne sono modelli col cuscinetto in ceramica, cioè stiamo parlando veramente di una cosa, potrebbe, non escludo diventerà una competizione, non dico olimpionica, ma qualcosa del genere tra poco, come c'erano appunto per il cubo di Rubik, ce ne saranno anche per il nostro fidget spinner, di sicuro. Allora, col cubo di Rubik non sono mai andata d'accordo, col fidget spinner adesso mi allenerò. Altri gadget da tenere d'occhio invece, a questo punto ci aggiorniamo anche su qualcosa di nuovo, visto che ormai questo è assodatissimo, è l'aggeggino dell'estate. Vero, ce ne sono due un pochino più costosi, ma anche dal mio punto di vista più interessanti. Parliamo dei primi, cioè la robotica commerciale. Ci sono due robot venduti adesso nei negozi e prodotti della Utech Robotics, che è un'azienda cinese in realtà, che sono strepitosi. Si tratta dell'Alpha 1S appena uscito e del Jimu, che è un'altra linea. Sono due robot. La cosa bella dell'Alpha 1S, che costa €400, quindi non pochissimo, è che è completamente programmabile e proprio per questo motivo ha dei movimenti estremamente fluidi, è assolutamente utile perché c'è un entry level, diciamo, è una versione programmabile con delle competenze più serie, più di alto livello, permette di impratichirsi e non poco con gli strumenti della programmazione anche appunto più complessi. Poi invece c'è il Jimu, che ha un altro tipo di interesse, vale a dire è un robot modulabile a pezzi, immaginate un Lego in qualche modo dedicato alla robotica, anche in questo caso programmabile, ma con l'aggiunta del fatto che uno può inventarsi il proprio modello, condividerlo in una community che esiste open source, laddove io posso progettare, tra virgolette, il mio modello, farlo vedere agli altri, e chiunque può riprodurlo e programmarlo come preferisce. Ecco, questi sono due gadget, secondo me, che dicono non solo della direzione che stiamo intraprendendo, ma anche che hanno delle conseguenze, delle applicazioni ben oltre il gioco. E sono estremamente interessanti, che sono molto belli da vedere, tanto che sono tutte e due esposti, e questo è un altro consiglio che do al volo, in una mostra a Rovereto, Io Robotto, che raccoglie tutta la robotica intrattenitiva degli ultimi secoli, perché i robot, il concetto anche del robot, è un concetto vecchio di secoli. L'uomo ha sempre tentato di credersi Dio, in qualche modo di creare artificialmente la vita. Quella mostra è assolutamente da vedere a Palazzo Alberti Poglia, ve la consiglio, perché dura fino a fine agosto. Vabbè, noi saremo presto a Trento, perché lo dico in anteprima, saremo al Festival dell'Economia in diretta con Sabato il Villaggio con RadioTube, quindi già sono pronta ad andare a fare un giro a Rovereto, che appunto è lì in zona. Tu hai citato Lego, però c'è qualcosa che riguarda proprio la Lego, se non sbaglio, anche di nuovo? Decisamente, poi voglio dire, mi ha introdotto citando la buona guida galattica, come non parlare del modello Apollo 11 Saturn 5, che uscirà il primo di giugno. Mm-hmm. Cos'è? Beh, per i fanatici di spazio e della Lego è il trade union pazzesco, è l'apice di una peraltro collaborazione che Lego e NASA hanno inaugurato già da qualche tempo. Insomma, uscirà questo kit dedicato, questo set dedicato appunto al lanciatore che portò l'uomo sulla Luna per la prima volta, di un metro. Cosa curiosa, è il set con il maggior numero di pezzi, sono 1969, e temo che il numero non sia cambiato. Infatti me l'ho già sentito 1969, esatto. Da qualche parte. 1969 pezzi, in qualche modo creati da un utente che su Lego Ideas, che è un'altra piattaforma digitale laddove chiunque può proporre un proprio progetto, ovviamente fatto di Lego, e qualora riuscisse ad avere 10.000 like, chiamiamoli così, la Lego può pensare di produrre quel kit, ovviamente riconoscendo un diritto d'autore. Benissimo, questo kit arriva da lì, uscirà il primo giugno, costerà circa 110-120 euro, quindi non pochissimo, ma fidatevi, se siete fanatici di spazio, se siete fanatici dei mattoncini danesi, è uno splendore. Questo è per le ferie, però, perché mettere insieme 1969 mattoncini Lego per fare un razzo da un metro, insomma, richiede il suo tempo. Bello, mi piace moltissimo. Ma quello fa parte del piacere, fa parte del gioco, come dire, appunto, il sabato del villaggio, la festa era il sabato, era nell'attesa, non era tanto il giorno dopo. Certo, no? Certo. Tu hai già proposto qualche idea per fare il tuo kit, no? Perché poi quando la proponi ce lo dice, noi ci facciamo arrivare 10.000 like. Decisamente, ma anche perché, ripeto, l'autore è riconosciuto un diritto d'autore. Voi pensate che, scusate la ripetizione, i famosi kit dedicati per esempio alla casa dei Simpson, o strepitosi all'automobile dei Ghostbusters, arrivano da lì, sono anche pezzi che hanno fatto grandissimo successo poi, quindi insomma non è un'idea da sottovalutare. Lego da questo punto di vista è assolutamente all'avanguardia, cioè ha delle idee, appunto Lego Ideas, davvero molto molto interessanti. Qui c'è il diritto d'autore, a differenza della signora ingegnera del fidget spinner, che come abbiamo visto invece non ha tirato fuori neanche un euro. Accidenti! Allora, andiamo tutti a comprarci questo fidget spinner, cercando di battere tutti i record e di fare i tutorial e di sfidare i ragazzini, perché noi possiamo farlo. Andiamo a proporre qualche nuovo kit alla Lego, perché mi è piaciuto tantissimo. E poi questa cosa dei robot educativi, lo abbiamo detto, sono prezzi importanti, però mi sembrano delle ottime idee invece per investire un po' sull'educazione, sulla formazione. Mi sembrano cose davvero interessanti, Emilio. Sono d'accordo, perché poi la robotica con l'intelligenza artificiale, con il gaming, sono temi che appunto, nonostante le apparenze, vanno molto al di là di quello che dicono, e soprattutto, ahimè o per fortuna, raccontano non solo i tempi moderni, ma anche quello che verrà di sicuro. Grazie a Emilio Cozzi. Allora, siccome lo potete leggere su un sacco di riviste, giornali, Sole 24 Ore e Nova prima di tutti, io vi do ancora il suo account di Twitter, che è @ addio e grazie per, appunto, visto che siamo tutti un po' nerd, siamo tutti così figli di Douglas Adams e della Guida Galattica per autostoppisti, lì trovate tutti gli aggiornamenti per leggerlo dappertutto e sentirlo anche quando ci viene a trovare al Sabato del Villaggio. Grazie a Emilio Cozzi, alla prossima! Grazie a voi, ciao a tutti! Il Sabato del Villaggio. E lo so che è il momento di lanciare il nostro gastronauta e io lo lancerei così. I'm making a music video. It's called Pinot Noir. Action! Pinot! Myanmar, mid-sized car. You don't have to be popular. Find out who your true friends are. Pinot! Allora, dovete sapere che il nostro gastronauta mi comunica sempre un po' in anticipo qual è il tema della giornata. E quando ho letto che voleva parlare di Pinot Noir non credevo ai miei occhi, perché questa musica, che si intitola Pinot Noir e fa abbastanza ridere, è uno dei momenti più importanti di una serie televisiva che è ritornata proprio ieri su Netflix con una nuova stagione, Unbreakable Kimmy Schmidt. Quindi io questa sera passerò tutta la serata a guardarmi gli appuntamenti, tutti gli episodi di Unbreakable Kimmy Schmidt con Pinot Noir. E quando Davide Paolini ha detto Pinot Noir ho detto vabbè, ma tutto torna, niente per caso nel nostro Sabato del Villaggio. Ciao Davide! Ma dove le vai a scovare queste canzoni? Ma Pinot Noir, ma cosa non è divertente? Io non sarei mai immaginato che esistesse una canzone sul Pinot Noir. Io lo chiamo Pinot Nero perché parlerò di Pinot Nero italiano, perché in questo momento c'è una tendenza, magari con questa canzone la useremo sempre di più, c'è una tendenza abbastanza diffusa, niente a che vedere con la Borgogna perché bisogna mettere le mani avanti, lì siamo in un altro pianeta, ma il Pinot Nero italiano insomma sta crescendo, ci sono dei luoghi di culto, ad esempio all'Enoteca Marcucci a Pietrasanta ormai il Pinot Nero è diventato, come posso dire, il grande protagonista di verticali, di assaggi di Pinot Nero che arrivano da tutta Italia, ma è sviluppato ovunque questa passione per il Pinot Nero, un po' come è una piccola passione all'interno di grandi passioni, niente a che vedere con lo champagne, però il Pinot Nero oggi è una passione, è anche la mia passione. E allora io, prima di parlare della via italiana del Pinot Nero, perché esiste in Toscana, poi ve ne parlo, voglio iniziare dai pionieri, all'inizio degli anni 70. Allora sono stato un emiliano in provincia di Bologna che si chiama Enrico Villania, che il figlio produce ancora Terre Rosse, è stato uno dei primissimi a impiantare i vitigni internazionali. E poi il Pinot Nero di Tenuto Bagnolo dei Marchesi Pancrazi in provincia di Prato. E poi via via, però a questo punto bisogna andare in Alto Adige, perché diciamoci la verità. In Alto Adige è un po' la culla. Sì, questa zona che si chiama Mazzon dagli anni 70, e lo documenta bene un libro di Peter Dipoli e di Michela Carlotto. Carlotto, tra l'altro, Michela Carlotto è uno dei più importanti produttori, uno dei migliori produttori, assieme a Gottardi. Ecco, sono queste due mie passioni di quella zona lì. Poi ci sono anche Brunneff, Maso Bartenau, Haas, però Gottardi e Carlotto, secondo me, sono davvero molto molto interessanti. Nel territorio di Appiano poi c'è un'altra mia passione, che è Strobloff, e Strobloff ha anche due vini, uno normale Pigino e una riserva veramente eccellenti. Ma anche Sante Valentine non è male, sempre nella zona di Appiano. Siamo sempre ad ottimi livelli, come dico, la Borgogna è un'altra cosa. Però arriviamo alla via italiana al Pinot Nero, una via impensata, perché nessuno avrebbe mai pensato, e ora dirò le regioni, e molti che non conoscono questo mondo rimarranno un po' meravigliati: Lunigiana, Garfagnana, Mugello, Casentino. Ebbene, è una dorsale appenninica toscana di una bellezza dal punto di vista turistico straordinaria, ancora per fortuna poco abbattuta dal turismo. Chi l'avrebbe mai detto che in questa area nascessero tanti Pinot Nero, alcuni di quali molto, ma molto interessanti. E quindi chi volesse andare in questa zona trova un paesaggio veramente magnifico e può andare a bere anche degli ottimi vini che poi trova anche altrove. Podere Fortuna, che secondo me è stato il primo a dare il via al Mugello, poi ancora Rio di Vicchio, poi ancora in Casentino il Podere della Civettaia di Prato Vecchio. E poi sono belli già solo i nomi, già solo i nomi, già solo i nomi sono poesia. Sì, sono poesia. Poi te ne dico un altro, Cuna del Podere Santa Felicita, di un enologo molto interessante che si chiama Staderini. Veramente Cuna è un po' il must dell'enoteca Marcucci, ma devo dire che anche tutti gli altri, a cominciare dal Podere Fortuna, che anche questo ha due pinot neri, uno si chiama Fortuni e l'altro Coltala, e diversi completamente l'uno dall'altro, però da provare. Questo mondo del pinot nero, del Casentino, della Lunigiana, della Garfagnana, del Mugello, ha un po' contaminato anche tante altre zone che stanno fiorendo. Beh, l'Oltrepò Pavese è sempre stata la culla del pinot nero, è stata il posto di caccia di tutti gli spumantisti italiani, che lì si sono andati a rifornire degli ottimi pinot neri, ma è appunto per questo tipo di prodotto spumanti. Ma ci sono anche dei pinot neri di eccellenza, uno si chiama Arfena di Picchioni, di Andrea Picchioni, poi c'è un altro di Vistarino, della famiglia Giorgi, anche questo è un altro pinot nero da assaggiare per tutti gli appassionati. Però vi dico l'ultima mia scoperta. Bene, l'ultima mia scoperta è sulle Dolomiti. Addirittura un pinot sulle Dolomiti? Che sulle Dolomiti bellunesi avessi scoperto, e posso dire ho scoperto, un pinot nero che mi ha veramente affascinato. Si chiama Pian delle Vette, azienda Pian delle Vette, e devo dire che sono rimasto molto sorpreso dal freddo di quella zona. Una sera in una trattoria di un paese di 400 abitanti ho visto questa bottiglia, ho detto apriamola, e sono rimasto molto ma molto meravigliato. L'ho cercata, purtroppo ne fa pochissime bottiglie, cerca di qua, cerca di là, alla fine ne ho trovato una seconda bottiglia che mi berrò con molta ma molta attenzione e molta calma. Ecco, allora, pinot nero per molti va servito molto, molto freddo, diciamo non ghiacciato, però è uno di quei vini rossi che possono benissimo andare col pesce, quindi nella stagione che sta arrivando, per coloro che non vogliono bianco anche sul pesce, su alcuni pesci, specialmente a base di pomodoro, il pinot nero è l'ideale. E poi è un vino, credo, da tutto pasto, perché si può iniziare dall'antipasto, si può arrivare non al dolce assolutamente, però fino a un secondo anche di carne, perché le carni bianche col pinot nero vanno benissimo, e quindi anche con molti condimenti. Per cui è un vino da questa stagione, e quindi d'ora in poi credo che si possa benissimo utilizzare alla grande. Io ho detto Borgogna, però devo dire che anche nell'Oregon ci sono degli ottimi pinot neri. Nell'Oregon? Sì, nell'Oregon. Nell'Oregon ci sono degli ottimi pinot neri, ti posso dire anche di più. La più grande enologa di pinot nero negli Stati Uniti è una donna. E non per questo voglio dire che il pinot nero è un vino da donna, perché assolutamente io credo che sia un vino da raffinati, il pinot nero, e quindi sia da uomini raffinati che da donne. Da raffinati e da raffinate, perfetto. Anche se quando le donne dicono un rosso, ti dicono, sbagliano dire molto leggero, perché non esiste leggero, cioè esistono vini magari che sono molto importanti e meno importanti. Leggero c'è ben poco, magari c'è l'acqua minerale, leggero, in qualche caso neppure quella. No, io sono per il rosso importante. Davide, non abbiamo moltissimo tempo, però almeno qualcosa sulla chicca che hai scovato questa settimana la vorrei. Che indirizzo ci racconti? Ti mando a Montebelluna. Perfetto. A Montebelluna, il paese degli scarponi, da sci. Però si può trovare anche altro. È un nome molto particolare il posto. Si chiama Nidaba. Beer, Peace and Love. Quindi devo dire che è molto molto completo. Ecco, non è una birreria, perché ha 18 spine di birre selezionate, una cosa incredibile, pochissimi si possono permettere questo in Italia, con tante birre selezionate e poi altre tante birre nella carta, Ma questa birreria è una birreria molto insolita, perché innanzitutto è un bellissimo locale, ha un orto dove vengono coltivate tutte le verdure che poi vengono servite, ha una carta che non è, appunto, non ha solamente l'hamburger, anche se l'hamburger è molto raffinato perché è di una macelleria che si chiama Damini, che poi viene lavorata nelle cucine di questo ristorante da Andrea, che è il patron. E poi c'è tutta una serie di cose molto interessanti, ad esempio il pane che utilizza arriva da un famosissimo pizzaiolo che si chiama Bosco, quindi arriva anche da abbastanza lontano. Si può cominciare a mangiare con le certosine, che sono crocchette fondenti con cacio e pepe, mm-hmm. Si mangiano in questo momento degli asparagi fritti buonissimi, o delle patate con buccia sempre fritte. Poi si passa ai piatti, ci sono sia piatti tipo fiori di zuccheri pieni di ricotta, ci sono anche piatti di pesce come spaghettini freddi con tartar mista di pesce, ci sono anche filetti di trota, come dicevo ci sono molte scelte anche di carne, ottimi dolci, tra cui un dolce a base di nocciole molto, molto gustoso, e poi, come dicevo, tanta birra. Ecco, non consiglio di andare da Nidaba chiedere un bicchiere di vino, perché altrimenti Andrea, devo dire che fa una brutta faccia. Eh no, se ci abbiamo 18 birre, ragazzi, onoriamo la spina. Ecco, però se uno chiede invece di una bottiglia di vino di scendere in cantina e andare a vedere la cantina dei distillati, ecco, allora siamo a livello delle 18 pine di birra selezionate dallo staff, perché dentro ci sono dei whisky di 50-60 anni e tante altre prelibatezze molto, molto rare, devo dire. Quindi, come dicevo, una birreria insolita. Si possono chiedere qualsiasi tipo di birra. In questo momento, tra l'altro, magari ne parleremo nelle prossime puntate, c'è una tendenza molto diffusa, sono le birre acide. Qualcuno sostiene che è una tendenza che era già sorta qualche anno fa, però noi possiamo anche ritornarci, perché non è che possiamo essere sempre sul pezzo. No, allora facciamo una cosa, Davide, la prossima settimana brindiamo a birra? Bene, vada per la birra, perché la birra, ci sono birre che vanno sposate anche con i dolci. Fantastico, no, che meraviglia, dai. Con le birre, dalle ostriche ai dolci si può bere birra, allora, anche se la mia passione rimane sempre il vino. Allora Davide, l'appuntamento alla prossima settimana con te, allora, a base di birra. Grazie per essere stato con noi, Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, a presto. Ciao. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con il Sabato del Villaggio, perché dobbiamo aprire la pagina della tecnologia. Il Sabato del Villaggio. E ci ritroviamo insieme come sempre a quest'ora, è il momento della tecnologia. Pensavo che Enrico Pagliarini si collegasse da chissà dove e l'ho visto arrivare in studio, sono ancora qua che rido. È forte sta tecnologia. Oggi, sì, forte sta tecnologia che tu ti colleghi e arriva direttamente. Sbuchi. C'è chi dice che nel futuro questa sarà una realtà, però penso che sia un futuro abbastanza remoto. C'è una persona che conosco che si occupa di questi temi, che parlando di non solo ologrammi ma di realtà virtuale e realtà aumentata, che sono due cose che vanno assieme, dice: ma guarda che fra qualche anno, lui è molto ottimista, fra qualche anno noi vivremo nei film e quindi anche nella realtà, con la realtà aumentata, cioè io sarei nella versione che tu ti sei immaginata, okay, un ologramma che sono qua, magari no, bene, sappiamo che non è vero oggi, però no, però oggi sei vero. Allora Enrico, posso chiederti una cosa? Voglio capire qualcosa di più di questa notizia che ho letto relativa al geoblocking. Bellissimo. Dunque, perché allora, io leggo intanto questo nome e non capisco bene cosa significa e cosa è successo, quali decisioni europee sono state prese. Dunque, che cos'è il geoblocking? Così spieghiamo: geografico, geografia, blocking, blocco geografico. Che cosa succede? Che il diritto d'autore segue ancora i confini nazionali, o non solo il diritto d'autore, ci sono un sacco di cose che seguono ancora i confini nazionali. Quando noi ci spostiamo all'interno dell'Unione Europea, spereremmo di poter utilizzare i nostri contenuti, ma anche cose banali, che ne so, una diretta della RAI, servizio pubblico, uno dice vabbè, ma per lavoro uno va in Europa, gira, alla sera dice ma mi voglio vedere un programma su Sky Go, su, sì, oppure anche sulla RAI, banalmente, su RAI Play. Purtroppo molto spesso questo non è possibile. Perché? Perché i programmi trasmessi all'interno dei confini nazionali hanno un diritto d'autore nazionale, e quindi quando noi siamo all'estero il sistema internet conosce, capisce dove ci troviamo e ci appare un messaggio e dice: guarda, purtroppo caro utente, anche se hai pagato, perché questa è la cosa pazzesca, anche se hai pagato, questo contenuto non lo puoi vedere dove ti trovi, perché il diritto d'autore ci permette di trasmetterlo solo all'interno del confine nazionale. Questo capita non solo per film, ma anche per eventi sportivi. Perché uno dice: il film magari me lo scarico anche legalmente, me lo carico sul mio terminale, sul mio computer portatile, sul mio iPad, eccetera, eccetera, sul mio tablet, e poi me lo riguardo. Ma ovviamente se io devo guardare una partita di calcio, non è che me la posso scaricare prima. Diciamo, no? Che è un problema frequente per chi fa trasferte brevi di lavoro. Sì, esatto. Allora, da molto tempo, questo è un dibattito che va che è da molti anni in atto, in Europa si dice: ma visto che siamo all'interno dell'Unione Europea, visto che parliamo ad esempio di roaming, quindi della cancellazione di confini per quanto riguarda la telefonia mobile, perché non parliamo anche di portabilità dei contenuti? Cioè io vado all'estero e mi porto dietro i miei contenuti, certo. Nel senso che se io voglio vedermi la partita di calcio oppure qualsiasi altro telegiornale si può vedere, per dire, insomma, sì. Anche la radio si può ascoltare, questo si può, però ci sono una serie di contenuti che sono bloccati, quindi da qui geoblocking. Parlamento europeo questa settimana, dopo un dibattito che è andato avanti da tempo, ha approvato a larghissima maggioranza, quindi più di 580 voti, un provvedimento, una direttiva che non liberalizza completamente, perché nelle questioni europee ci sono sempre dei limiti, ci saranno dei limiti, però di fatto approva questa liberalizzazione, quindi tra qualche mese, inizio primavera 2018, uno potrà vedere tranquillamente questi contenuti quando si trova all'estero. Quindi hai pagato per l'abbonamento del tuo operatore di streaming video preferito? Benissimo, anche quando ti trovi all'estero potrai continuare a utilizzarlo, ma ci saranno dei limiti. Alcuni sono già stati definiti e sono sulla falsa riga del roaming, perché ricordiamo che dal 15 giugno il roaming viene, quello telefonico, che è anche quello dei dati, della navigazione dati, viene liberalizzato, vengono eliminati gli extra costi che ci venivano applicati quando noi eravamo in roaming, ma con una serie di limiti. I limiti sono essenzialmente temporali, cioè non è che per tutto l'anno tu puoi guardare, certo, un contenuto, oppure nel caso del roaming puoi stare in roaming. Ci sono dei limiti temporali. Adesso sarebbe un po' complicato, perché non ci sono solo limiti temporali ma anche di traffico generato, eccetera eccetera, quindi faremmo un percorso molto complicato, o forse meglio dire lo faremo questo percorso una volta che saranno definiti per bene, certo, questi però possiamo limiti. Dire io posso utilizzare il mio servizio a pagamento, appunto faccio l'esempio di Sky Go, di quelli di Mediaset, sì, di Infinity, sì, che io ho pagato in Italia, se vado all'estero per brevi periodi? Esattamente. Allora c'è una parolina che viene definita come fair use, cioè uso ragionevole, chiamiamolo così, onesto di questi servizi. Cioè quindi se io abito permanentemente all'estero non posso approfittare di questa apertura, ma se io viaggio e ragionevolmente viaggio per una settimana, 15 giorni, qualche giorno in più, ecco, in questo caso posso utilizzarlo senza grossi problemi. E quindi è comunque un passo in avanti abbastanza forte. Stessa cosa vale per il roaming telefonico, ma magari nell'avvicinarsi della... Faremo un punto della situazione. Esatto. Ci sono alcuni operatori che hanno già aperto, ma sul roaming telefonico vi anticipo che cosa potrebbe succedere. Prima di tutto che potranno esserci degli abbonamenti o delle carte ricaricabili che non prevedono il roaming, perché hanno eliminato gli extra costi. Ma il roaming non è una cosa obbligatoria, cioè l'operatore non ti deve concedere la possibilità di telefonare all'estero, può anche decidere di darti, cioè venderti una SIM che sia utilizzabile solo all'interno dei confini nazionali. Il passo avanti, la novità di cui abbiamo parlato tantissimo, che diventerà operativa dal 15 di giugno, prevede che in caso ci sia il roaming sia vietato mettere degli extra costi. Quindi il roaming deve essere gratuito per periodi abbastanza limitati. Però una cosa che potrebbe succedere, che potrebbe accadere, almeno alcuni esperti ritengono che sia abbastanza probabile, è che alcuni operatori, soprattutto gli operatori o i profili tariffari abbastanza economici, ecco, che vengano offerte in futuro delle SIM per questo tipo di profili o per gli operatori abbastanza economici, delle SIM senza il roaming, quindi senza traffico sia voce che dati in roaming. Vedremo se questo accadrà, non lo so. Questa è una mossa per tentare di tenere i prezzi bassi all'interno dei confini, perché c'è tutta una dinamica dei prezzi che dopo l'eliminazione degli extra costi del roaming, con tutta una cosa complicatissima relativa ai costi all'ingrosso, cioè il prezzo che gli operatori applicano tra di loro, cosa che noi non vediamo, c'è stata tutta una dinamica di prezzo tale per cui alcune tariffe molto economiche all'interno di alcuni paesi, non tutti, ma l'Italia tra questi paesi, sono piuttosto difficili da offrire ai cittadini. Però questo vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi. Rifaremo il punto. Enrico, c'è un'altra domanda che ti voglio fare, perché c'è un'altra espressione inglese, un hashtag che si è diffuso la scorsa settimana, cancelletto WannaCry. WannaCry, allora, si è parlato tantissimo di WannaCry, anche purtroppo a sproposito di questo che tecnicamente non è un virus, anche se è stato un attacco informatico, non è nemmeno stato il più grande attacco informatico. Se ne è parlato molto perché la BBC ha rilanciato questa notizia. Questo è stato sicuramente un grandissimo attacco informatico, non sappiamo bene da dove sia arrivato. La gravità in questo caso è stata determinata dal fatto che forse per la prima volta un altissimo numero di ospedali, e stiamo parlando di ospedali britannici, è stato attaccato. Molto spesso questo tipo di attacchi, che vanno sotto il nome di ransomware, che è una sorta di estorsione digitale, io ti infetto, ti blocco il computer, ma soprattutto più che il computer ti blocco i dati, quindi non puoi più accedere ai tuoi dati, alle tue fotografie, ai tuoi documenti, eccetera, eccetera, e in cambio dello sblocco, della password per sbloccare il tutto, ti chiedo un riscatto. Molto spesso, guardate che questa è una piaga pazzesca, ci sono un sacco di... Sì, non solo su enti, ma anche singole persone. Esatto, soprattutto singole persone, piccole aziende, casi, ce ne sono veramente a migliaia. Difficile fare una mappatura, anche se alcuni dati ci dicono che questa piaga sta aumentando di molto. Difficile anche perché quando ti succede, se sei un singolo, sei una piccola azienda, mica lo vai a raccontare, che fai anche la figura del pirla, no? Certo. Ecco, in questo caso non potevano non dirlo, sono stati attaccati 45 ospedali o qualcosa del genere, con una ripercussione anche sull'operatività dell'ospedale, ma non solo per gli appuntamenti, cosa che sarebbe comunque grave, ma insomma risolvibile in un qualche modo, ma anche sulla operatività vera e propria, cioè sulle sale operatorie. Perché ci sono un sacco di macchine, questo è un problema di cui gli esperti discutono e sono consapevoli, ci sono un sacco di macchine che hanno sistemi operativi vecchi che comunque, oppure che non vengono aggiornate per vari motivi, per mancanza di budget, perché le società che si occupano della manutenzione a volte non la fanno come dovrebbero, certo, farla. Insomma, ci sono vari problemi, e qui ho utilizzato una parola che tutti noi dovremmo tenere a mente: aggiornamento. È la cosa più facile del mondo aggiornare i software, anche le app sullo smartphone, certo, non solo i software che abbiamo sul computer o sugli altri nostri terminali. Dobbiamo aggiornare, perché molto spesso questi attacchi hanno successo se abbiamo software vecchio. Grazie. Quindi, per il consiglio, che è sempre molto prezioso, Enrico. Per concludere, il consiglio invece è quello di ascoltare 2024 come, dove, quando? Abbiamo un fantastico podcast che noi abbiamo ribattezzato Super Podcast, perché è molto lungo, mettiamo tutte le interviste con i nostri ospiti. Devo dire che alcune volte le interviste sono molto lunghe, però un appassionato vuole sentire. Esatto, ho chiesto agli ascoltatori: ma volete che faccio un editing, quindi un taglio delle interviste più radiofonico, che è quello che uno ascolta la radio? Tutti hanno detto no, vogliamo sentire tutto quello che ti dici. Fantastico. Non c'è il fuori, diciamo, il fuori onda, perché non è che prima e dopo lascio tutto, però è divertente. E poi in onda? In onda replica domani alle 13.30 oppure venerdì prossimo ore 22. Grazie Enrico. Ciao a... Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta Il sabato del villaggio. Secondo lei c'è ancora speranza per il mondo? No. Hai letto il messaggio? Allora, il funerale è alle 7, ti ho lasciato l'indirizzo dietro al biglietto. Ma tutto bene? No, che stamattina mi sono svegliato con un fischio all'orecchio. Io non sento niente. Le orecchie presentano la maggiore incidenza di infezioni, soprattutto in età infantile. Ah. Lei ha figli? No. Lavora con bambini? Faccio il supplente in un liceo. Quelli non sono bambini. E come sempre a quest'ora il momento con le uscite al cinema del fine settimana. Ecco, quello che avete sentito è un estratto da un film che mi incuriosisce molto perché ha un titolo davvero singolare, che si riferisce a una parte del corpo. Insomma, sono curiosa di sapere se vale la pena andare a vedere questo Orecchie. Lo chiediamo subito al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco, allora andiamo a vedere questo film? Ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Assolutamente sì, da andare a vedere questo Orecchie di Alessandro Arunadio, un film molto molto singolare. È un film che racconta una storia piccola, se volete anche un po' tanto simbolica, quella di un uomo che si sveglia, un giovane uomo che si sveglia una mattina con un fastidioso fischio alle orecchie. Un fischio alle orecchie che pian piano nel corso di questa incredibile giornata si amplierà sempre di più, quasi estraniandolo dalla sua vita e dalle persone che incontra nel tentativo di farsi guarire questa fastidiosa sindrome. Un biglietto su un frigo è l'unico indizio che trova, sul frigo di casa sua: è morto il tuo amico Luigi, mi sono presa la macchina. Ecco, questi sono gli ingredienti con i quali comincia questo film, che tra l'altro, come dicevo, tecnicamente anche molto interessante, perché si comincia con un'inquadratura sullo schermo quasi quadrata, un po' da vecchio cinema delle origini, e pian piano, man mano che questo protagonista va avanti nella sua cavalcata in questa giornata, lo schermo si allarga fino a diventare quasi Panavision. Ecco, ci sono idee che sono tipiche di chi riesce a fare un qualcosa di importante a basso budget, e questo secondo me è uno dei grandi risultati di questo film, di questo Orecchie, che io vi consiglio davvero di vedere. Sono giorni di festival, perché è in corso il Festival di Cannes, e mi chiedo se ci sono già dei film, magari italiani, che sono in sala, che possiamo già andare a scoprire, Franco. Sì Marta, ci sono due film italiani che sono già rimbalzati dalla crosetta alle nostre sale, pur non essendo noi in concorso quest'anno, però ci sono film che hanno avuto nelle loro sezioni una, come dire, una collocazione importante. Pensiamo a Sicilian Ghost Story, per esempio, che sposa la storia di mafia alle fiabe dei fratelli Grimm. Un piccolo paese siciliano, un ragazzino di 13 anni, la sua compagna di classe innamorata di lui, che non ha il coraggio di dichiarare, un ragazzo che scompare, un giorno scompare quasi nel nulla. È un film, come dicevo, molto simbolico, ma anche con atmosfere e una regia davvero rarefatta, interessante, puntuale, per ricordare appunto che la mafia non è solamente quella delle grandi stragi e tutto, ma è qualcosa che permea, pervade la vita anche dei più piccoli. E questo, devo dire, è un messaggio molto bello da parte di Sicilian Ghost Story. Ultima curiosità, volevo sapere che film è questo The Dinner. Ma The Dinner è un bel thriller che si innesta nel filone dei carnage, delle cene fra amici, delle prenom, eccetera. Cioè, classica cena nella quale quattro persone, in questo caso due fratelli e le rispettive mogli, si trovano e dove scoprono o scoppiano alcuni altarini che fin lì erano rimasti sommersi. Il filone è quello. Cosa fa però Owen Overman? Fa aleggiare un qualcosa di molto noir, un non detto terribile su questa cena tra un fratello che è riuscito, è in corsa per diventare governatore, è un politico molto conosciuto, e uno invece che ha avuto problemi psichiatrici. C'è questo non detto che prima o poi arriveremo a svelare. Insomma, è anche un po' un giallo questo The Dinner, e devo dire che a me tutto sommato è piaciuto. Grazie Franco, dunque l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Dopo ci sentiamo dalle 18, Rosa Purpurea, collegamento col Festival di Cannes, e poi tutto il cinema da vedere anche in casa. Restate con noi. Giorni senza fine, croci lungo mare, profughi siriani costretti a vomitare, colpi di fucile, sudore di cantiere, nel cortile della scuola, stese ad asciugare, canottiere rosse, rosse a sventolare, se mi dai la mano ti porto a navigare, e se mi accarezzi te lo lascio fare, c'è qualcosa nella fine dell'estate, non so bene che cos'è, e non riesco a respirare. Io non ho più voglia di ascoltare questa musica leggera, nello sparire nel mistero del colore delle cose quando il sole se ne va. Resta poco tempo per capire il significato dell'amore, l'idiozia di questi anni, il Vangelo di Giovanni, la mia vera identità. I Baustelle, per concederci una piccola segnalazione prima del giornale radio delle 16. Allora, è tutto pronto per la 13ª edizione del Miami, il festival organizzato da Rockit.it e da Better Days, un festival che è diventato un evento imprescindibile per la musica italiana da giovedì 25 a sabato 27 maggio. Lo segnalo però oggi, qualche giorno prima, per chi volesse fare un salto a Milano, è all'Idroscalo di Milano. Cosa succederà a Miami? Lo abbiamo chiesto a Stefano Bottura, direttore appunto del Festival Miami. Cosa succederà? Succederanno così tante cose che dirle tutte insieme non si può, ma bisogna venire a vederle. Ovviamente ci saranno 60 band che per 3 giorni riempiranno di magia e musica un parco, per cui già detta così fa venire voglia di venire. Se devo dire qualche nome, perché qualche nome va sempre detto, ovviamente dico Baustelle, Carmen Consoli, Le Luci della Centrale Elettrica, Gen Circus, la Tripla R, Car Breve, Franco 126, Coez, Mecna, insomma ce n'è veramente tanto, tantissimo. Stefano, una cosa che siete riusciti a fare in questi anni è quella di intercettare la musica che poi è diventata da indie un po' mainstream, un po' il gusto più presente, insomma, tra le nuove generazioni. Sì, il suono del momento. Il suono del momento. Come avete intercettato tutti questi nomi? Ma è un po' il lavoro che facciamo durante tutto l'anno col sito rockit.it, è un po' fa parte del nostro DNA, della nostra storia, di quello che siamo. Il fatto di essere connessi con l'Italia, con quello che succede, fa parte di noi, no? fa parte del gioco. Come ci riusciamo? Boh, vabbè, a volte siamo fortunati, a volte siamo bravi, diciamo, dai, è un po' questo. Ti porto a navigare. E se mi accarezzi te lo lascio fare. C'è qualcosa nella fine dell'estate, non so bene che cos'è, e non riesco a respirare. Allora, sono le 15:55 minuti con i Baustelle in sottofondo. Diamo l'appuntamento al Sabato del Villaggio a dopo il giornale radio delle 16. Ci ritroveremo con un sacco di argomenti nuovi e staremo insieme fino alle 18, perché dalle 17 alle 18 è il momento di Radio Tube. Insomma, ancora 2 ore insieme. Ora invece è il momento di GR24. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Il sabato del villaggio. E rieccoci con la seconda ora del sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, il sabato del villaggio, tutte le nuove tendenze, acquisti mentali, musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologie, libri, e poi nella terza ora il nostro appuntamento con RadioTube. 349-238-6666, il numero per i vostri SMS. C'è qualcuno che mi chiede del matrimonio di Pippa. No, sto preparando la trasmissione. Non ho letto niente, non ho visto niente. Paolo da Milano, studierò nel fine settimana. Ma scopriamo insieme quali sono i temi della seconda ora del Sabato del Villaggio. Allora, avremo un ragazzo di cui stanno parlando tutti, è appena uscito da Amici ed è alle sue prime interviste. Sono contenta di potervi presentare tra poco Thomas Bocchimpani, un ragazzino veramente classe 2000, delizioso. Le serie TV, torna finalmente Twin Peaks, tutti i libri del momento con Alessandra Tedesco, ma cominciamo parlando di consumi. away, portalo via. Ma che cosa dobbiamo portare via? Quale sarà la chicca che ha scovato questa settimana per noi Maria Luisa Pezzali in fatto di tendenze e di consumi? Che cosa dobbiamo sapere questa settimana? Beh, glielo chiediamo subito. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Che cosa portiamo via? Beh, parliamo di consumi, che cosa si porta via? La doggy bag. La doggy bag. No, spieghiamo, mi piace un sacco questa espressione. Esatto, il contenitore per portarsi a casa il cibo avanzato dal ristorante è un'abitudine molto diffusa negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone in genere. Da qualche anno se ne promuove l'uso anche in Italia, complice, dobbiamo dirlo Marta, anche la sensibilità antispreco, che è un'altra grande tendenza di cui abbiamo parlato anche tante volte. Doggy bag, diciamolo, era quando si diceva lo porto a casa per il cane, e poi invece non era per il cane. Era vero, che poi non era vero, perché quando il cibo è buono uno volentieri se lo riscalda il è giorno dopo. È giusto riscaldarselo e mangiarselo, perché siamo tutti diventati consumatori più consapevoli. Una pratica di coscienza civica, direi Marta, e anche di responsabilità. Eppure, bisogna dirlo, in molti se ne vergognano. C'è un po' l'imbarazzo. Lo stesso nome, appunto, come se noi italiani l'abbiamo sempre visto fare nei film. Esatto. E però io vedo che la sensibilità sta crescendo anche nei più giovani. Io personalmente lo faccio, lo dichiaro, faccio coming out. Io raramente avanzo, però diciamo che succede magari col dolce, che lo ordini perché, come si suol dire, hai gli occhi più grandi la bocca, quindi vedi e dici no, voglio il dolce, poi quando ti arriva la fai, però poi pensi e dici ma questo domattina a colazione, esatto, quanto me lo godo, esatto, allora lo porti via. E allora, orgogliosi della richiesta della doggy bag, molti attori sono coinvolti in questa azione di sensibilizzazione per trasformarla appunto in una buona abitudine. Tra questi c'è la FIPE, che è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e noi abbiamo in collegamento il vicepresidente Giancarlo De Ida. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, voi siete tra quelli, insomma, in prima linea per la promozione di questa pratica che, ce lo confermi lei, è ancora un po' un tabù, è così? Ma è cominciato a rompersi questo tabù, no? Perché lei ha detto non sprechiamo, ma noi diciamo anche continua il piacere di mangiare quel piatto che non sei riuscito a portare a termine. Magari in qualche ristorante, in qualche trattoria, la porzione è un po' troppo abbondante rispetto a quelli che sono diventati gli standard, perché non solo non sprecarlo, e quindi forse superare così, continui un piacere, il piacere di poter portarlo a casa e di gustarlo con calma, riscaldandolo magari attraverso un forno a microonde che non rovina molto, è presente in tutte le case. E poi ritornare a quella cultura, io ormai ho abbondantemente superato i 60 e quindi da bambino mi dicevano metti nel piatto quello che vuoi ma mangialo tutto. È vero, quindi non dobbiamo avere imbarazzo nei confronti del ristoratore. Se comincia a passare questo momento, io ho, nell'evento in cui abbiamo pubblicizzato a Milano questo matrimonio fra il nostro mondo e questo nuovo modo di trasportare il cibo verso casa, quando è qualcosa in più che ci è arrivato al tavolo, non ci è passato perché abbiamo detto, come detto lei, all'occhio più grande della pancia, si diceva. Bene, in questo momento quante volte succede ai bambini, no? Che i bambini hanno ordinato una cosa e poi resta lì. Ma e anche non è stato ordinato un menù bambini, che è studiato anche. E questo bambino è normale che a casa propria mangi magari la parte che gli è rimasta, se è un prodotto che è riscaldabile, o anche mangiato tiepido. Ecco, immagino questo bambino il quale poi vorrà tornare nel ristorante, è anche un'operazione di marketing, perché poi mi ha dato il mio prodotto da potermelo portare a casa, perché non anche questo? E la disponibilità, ecco, dei ristoratori com'è, qual è? Assolutamente, con un'operazione di questo tipo lì sono stati presentati anche dei doggy bag molto belli, molto simpatici, cioè, e a questo punto non era portare a casa l'avanzo, no? Essere intelligente portando a casa una cosa che mi aveva dato piacere. E allora in questa comunicazione integrata noi pensiamo che allora la mano degli attori, voi che fate comunicazione, noi che ogni volta che ce lo chiedono a questo punto non stiamo lì e glielo diamo in un sacchettino della spesa, no? Quello che dice, ci abbiamo un sacchetto, no? Si usava una volta. Sì, infatti, ce l'abbiamo, magari urlando in mezzo al ristorante. Esatto, c'è proprio predisposto un meccanismo. Io penso che magari molti ristoratori già intelligenti su questa cosa magari faranno le porzioni un po' più avanti, perché se studiassero un doggy bag dove uno va in giro con un sacchetto dove anziché scritto Vuitton c'è il nome del ristorante, forse comunicazione, no? Certo. E infatti con voi c'è Comieco, il consorzio appunto per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Quindi, come dire, c'è una azione collettiva di vari attori, ce lo conferma su questa sensibilizzazione? Assolutamente, dobbiamo non sprecare per i momenti che attraversiamo, perché non è corretto, c'è una sensibilità di noi italiani in modo particolare. È finito il periodo in cui l'ostentazione, e quindi si consuma quello di cui hai bisogno, qualche volta non sai quanto. Questo è uno strumento per dire consumo e il buon cibo, e noi italiani e la ristorazione italiana è fatta di buon cibo, e questo buon cibo, come si usava nelle case che non avevano allora neanche i frigoriferi, quando si cucinava si trovava poi il modo di consumarlo la sera con grande rispetto di tutti. Ecco, forse questo percorso che stiamo facendo, e quindi il nostro, i ristoratori sono pronti a fare questo. Vedo i dati che avete portato appunto in occasione di Tutto Food, una ricerca Last Minute Market, da cui emerge che 4 italiani su 10 attualmente sono in imbarazzo a chiederla la doggy bag. Sicuramente qualche anno fa erano di più. Assolutamente erano di più. Io sono un vecchio socio FIPE, quindi vicepresidente, forse faremo anche un piccolo sforzo, gli aggiungiamo una terminologia italiana, passiamo da doggy bag a qualcos'altro, ma adesso rendiamo presente quello che stiamo facendo, no? C'è già questa denominazione che in qualche modo forse sta limitando l'uso, no? Se riusciamo a superarla avremo tenuto, forse che il principio, il modo di portarla a casa già supera un limite. Certo, in altre iniziative si parlava anche di family bag, che a me piace molto, sì, foodie bag. Sicuramente il suo stimolo a trovare poi un'espressione diversa lo cogliamo volentieri. Marta, che dici? Sì, anche in italiano. Esatto, perché no? Anche e soprattutto in italiano. Grazie a Giancarlo De Ida per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, a presto. Mi è piaciuta molto questa idea. Maria Luisa, l'ultimo consiglio è quello di essere avere. Sì, certo. Portiamo a casa sempre anche quello. Sì, intanto studiamo e ci pensiamo al termine in italiano domani alle 22, come sempre, Marta. Ciao Maria Luisa. Il sabato del villaggio. E al sabato del villaggio è il momento di parlare di libri. Guardavo spesso quella coppia perfetta. Erano l'incarnazione del vero amore. Ho voglia di cominciare una vita nuova. Io l'ho vista. L'ho vista dal treno. Sì, era con un uomo. È lei questa? E non so perché tutte queste sonorità mi riportano alla memoria di un film e ovviamente di un libro che era La ragazza del treno. Io non so se ho azzeccato, lo chiedo subito ad Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! Questo me lo devi dire tu, sai che io so solo di libri, di film, io non so nulla, di colonne sonore, mi perdo. Diciamo, come al solito, va bene guardare i film, ma chi legge i libri sa le cose prima. Questo ce lo siamo inventati noi, questo slogan, ormai ci piace così tanto e ce lo ripetiamo. Sì, va bene, hai ragione, era la colonna sonora, sottofondo non è carino da dire, della ragazza del treno. Ma perché ne parliamo adesso? Beh, perché il libro del momento, quello che domina tutte le classifiche, indovina qual è? è il nuovo libro dell'autore, dell'autrice. Mava, esattamente. Sì? Lei. Vedi. Lei è l'inglese Paula Hawkins. Il nuovo romanzo si intitola Dentro l'acqua, pubblicato da PM. È sicuramente il romanzo del momento. Beh, diciamo che con tutti i record che ha battuto La ragazza del treno, andiamo sul sicuro. Sai quante copie ha venduto nel mondo? Non ho idea neanche delle grandezze, degli ordini di grandezze. 20 milioni di copie. 20 sì, milioni sì, di copie, sì, con tante. Un solo libro. Cioè ci sono scrittori che neanche in tutta la loro lunghissima carriera arrivano con a vendere 2 milioni invece di 20 milioni. Okay. Quindi figurati, insomma, successo planetario. E adesso è uscito questo nuovo romanzo che si intitola Dentro l'acqua. Questo romanzo è uscito in contemporanea in tre paesi, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti, quindi siamo stati questa volta in pole position, segno appunto che anche un riconoscimento, proprio perché La ragazza del treno aveva avuto un grande successo anche in Italia. Si tratta sempre di un thriller, anche nel caso di Dentro l'acqua. Diciamo che la caratteristica anche in questo caso è che la verità emerge, diciamo, spiando un po', direi, attraverso il buco della serratura. No? Nella ragazza del treno c'era lei che passava col treno e guardava. In questo caso c'è un piccolo paese, un piccolo paesino della Gran Bretagna del Nord, che ha le atmosfere un po' alla Twin Peaks. Ah beh, attualità, grande attualità. Si parla tanto di Twin Peaks, ne parleremo tanto. E ha la stessa atmosfera, nel senso che sai quei paesini dove tutti sanno tutto, ma nessuno parla. C'è quell'atmosfera rarefatta. Allora, la trama rapidamente di Dentro l'acqua. Corpo di una ragazza, Nell, viene trovato in un fiume, in questo paesino. La sorella Giulia è costretta così a tornare in questa cittadina dove era cresciuta, ma insomma nella quale lei appunto si sentiva soffocare, insomma dalla quale era scappata. Lei è sicura che la sorella non si sia suicidata, perché il sospetto sia questo. Perché si sospetta il suicidio? Perché in quel fiume molte donne nel passato si sono uccise e questa ragazza che viene ritrovata morta era ossessionata da tutti questi suicidi. Però insomma Giulia vuole dimostrare che sua sorella non si è uccisa e chiaramente tutto il libro gioca in queste atmosfere rarefatte alla Twin Peaks, ma soprattutto al chi è chi e cosa è cosa, perché non è mai quello che appare. Non so neanche se chiederti a chi lo consigliamo, perché sicuramente a tutti quei milioni di lettori che hanno letto La ragazza del treno. Beh, sicuramente a quelli che hanno apprezzato La ragazza del treno, a chi ama i thriller che magari vanno a scavare un po' nei misteri del passato. Sai quelle cose, certo, un po'... piacciono molto. Ed esattamente. Perfetti per le vacanze, peraltro, perché in tanti poi si tengono i gialli da leggere in viaggio nelle vacanze. Sì, questo è proprio un thriller bello, quindi insomma... C'è da aver paura, mettiamola così. Ma so che parliamo appunto anche di viaggi. No, parliamo di gialli e di viaggi. Li abbiamo messi insieme questa volta. Perché? Perché è uscita la classica antologia pubblicata da Sellerio che raccoglie dei racconti gialli. In questo caso è Viaggiare in giallo. Quindi sono tutti racconti di viaggio che hanno a che fare, però, che sono naturalmente gialli. Chi sono gli autori? Autori vari, naturalmente, quelli della scuderia Sellerio. C'è Antonio Manzini, c'è Marco Malvaldi, Alicia Jimenez Bartlett, c'è Alessandro Robecchi, insomma ci sono gli autori appunto Sellerio che si dilettano e ci sono i personaggi seriali di questi autori, quindi c'è per esempio un racconto scritto da Manzini dove torna il mitico Rocco Schiavone, il vicequestore più amato d'Italia, che ormai è per me Marco Giallini, lo identificano, che secondo me assomiglia anche un po' a Manzini. Giallini e Manzini si somigliano fisicamente, anche come carattere, e insomma Rocco Schiavone, questo brutto carattere ma è buono d'animo, il vicequestore romano trasferito ad Aosta, insomma quello che indaga sempre al di fuori delle regole, insomma si fa le canne, l'abbiamo visto molti nella fiction televisiva di Rai 2, insomma è un po' un personaggio sui generis, un poliziotto sui generis. Poi ci sono i vecchietti del Barlume di Malvaldi, poi c'è Petra Delicado di Elisa Jimenez Bartlett, insomma ci sono tutti i personaggi di questi autori. E quindi a chi lo consigliamo? Agli amanti di Rocco Schiavone, amanti dei gialli, agli amanti dell'investigazione. Esattamente, e anzi io forse farei anche un altro consiglio in questo caso. Magari si conosce solo uno di questi autori e l'antologia dà una panoramica sugli altri. Magari leggendo il racconto di Manzini e poi quello della Jimenez Bartlett ci si rende conto che piace la Jimenez Bartlett e allora ci si compra un libro suo. Insomma è una bella panoramica sul giallo internazionale. internazionale. Fantastico questo Viaggi e Gialli. Rimaniamo in tema di viaggio o di gialli? Di viaggi. Ah! Anche se la valigia potrebbe essere gialla, mettiamola così, no, ma era il mio post-it giallo. Rimaniamo in tema di viaggi perché ti ho portato questo libro che si intitola La felicità è a portata di trolley, sottotitolo Ogni giorno è un altro viaggio. L'ha scritto Marta Perego, pubblicato da De Agostini. La conosco bene, perché Marta Perego si occupa anche tanto di cinema. Brava. E quindi ci troviamo spesso nelle varie trasferte cinematografiche. Sì, ciao, Marta. Lei è un volto noto, diciamo anche molto televisivo noto. Lei si occupa appunto di cinema e di libri. E devo dire, ha fatto questo libro molto particolare. Non è un manuale tipo alla Marie Kondo, sai, riorganizzare l'ordine, come fare la valigia. No, ci sono degli elementi anche pratici. Ma in realtà è proprio, come dire, quasi un racconto sulla filosofia del viaggio e del fare la valigia. In sostanza, che cosa dovremmo portare con noi e cosa dobbiamo lasciare alle spalle. Lei tra l'altro parla da disordinata, che è diventata poi, volenti o nolente, esperta di valigie. Allora, in questo libro, diciamo, ci sono molte citazioni cinematografiche, appunto parlavamo prima di cinema, riferimenti ai romanzi. Nella bandella c'è scritto appunto che le misure di riferimento per una donna sono cambiate rispetto ai canonici 90-60-90 di un tempo. I centimetri in cui oggi cerchiamo di entrare, spesso con fatica e frustrazione, sono altri 55x40x20, cioè le dimensioni standard del bagaglio a mano. Quindi devo dire, è una lettura piacevole, perché insomma c'è dell'ironia, c'è del racconto, ci sono anche delle pagine bianche poi da compilare, ognuno può fare la sua valigia ideale, dimmi che valigia fai, ti dirò chi sei. Però ecco, si avvicina più a Solo bagaglio a mano, di cui avevamo parlato un po' di tempo fa, di Gabriele Romagnoli. Insomma, che cosa ci si porta poi sulle spalle, che cosa ci si porta con sé, che cosa è meglio conservare, che cosa è meglio eliminare, rispetto ai libri di Marie Kondo, Facciamo ordine nella valigia. Vabbè, dobbiamo anche un po' divertirci, oltre alle indicazioni pratiche. Facciamo qualcosa che ci porta ai ragazzi, perché non abbiamo ancora parlato di bambini. Di solito mi porti sempre delle cose carine, anche questa volta. Ti ho portato una cosa carinissima. Adesso mi dispiace che non si possa vedere alla radio, perché sto aprendo questo libro. Sai che i bambini ti chiedono: ah, ma quanto è lungo il libro? Sai quanto è lungo questo libro? Quanto è lungo? Ma è un foglio solo? Ripiegato? Sì, 15 metri. Questo è un libro che si apre, un libro illustrato per bambini, ragazzi, anche adulti, secondo me, perché piace a tutti, che si srotola praticamente, ed è lungo 15 metri. Cioè tipo a fisarmonica? Esattamente, è una fisarmonica, vedi? Lo so già, mi chiederai subito, guarda, prima ancora di dire il titolo ti dico quanto costa. Dai, dillo. 32 euro, quindi è insomma un prezzo allora, più impegnativo. Per gli ascoltatori che non avessero mai ascoltato, non è che io sono così attaccata i soldi, però se dobbiamo comprare queste belle edizioni, voglio sempre dire quanto costano, perché insomma può essere un regalo più o meno impegnativo per i bimbi. Beh, ecco, i nonni possono fare un bel regalo, due zii che si mettono insieme, i genitori che rinunciano a una serata in pizzeria, e possono regalare ai bambini Il Vermo, scritto dall'inglese Aidan Chambers, illustrato da Peppo Bianchessi, che non è il nostro Daniele Biacchessi, che è senza la N. Temo che non sappia disegnare Daniele Biacchessi, non lo vedo tanto nelle sue corde. Lui è Peppo Bianchessi ed è tradotto da Beatrice Masini, che è una scrittrice per bambini e ragazzi. Lei aveva tradotto anche Harry Potter, giusto per intenderci. Insomma, quindi veramente un libro d'autore. È a metà fra un romanzo illustrato è una graphic novel. Ma cos'è il Vermo? Chi è il Vermo? Il Vermo è un personaggio, diciamo, immaginario, chi può dirlo? Diciamo, si raccontano delle leggende su questo Vermo, che è un essere fantastico, che ha combattuto, diciamo, contro cavalieri armati di spada. Gli umani hanno paura di questo Vermo. E com'è che si viene a scoprire la storia del Vermo? Allora, è ambientato nel 1941, quindi siamo nella Seconda Guerra Mondiale, Gran Bretagna. C'è questo bambino, Tidman, che vive normalmente nonostante la guerra, finché un giorno va a trovare i nonni che abitano in una zona industriale che lui detesta perché è grigia, fumosa. Lui dice che i bambini sono cattivi lì. Per lui suo nonno, come spesso capita, è un eroe. Per anni ha fatto il minatore, quindi entrava nelle viscere della terra, eccetera. E il nonno gli racconta tutte queste leggende, lo porta a spasso su questa collina e gli racconta appunto anche questa leggenda sul Vermo, su questo personaggio che poi non vi posso dire tutto che cosa farà, perché secondo me anche gli adulti si divertiranno a srotolare questi 15 metri di narrativa. Però non, cioè non è necessario srotolarli tutti insieme, non bisogna avere una stanza grandissima. No, anche se non avete un corridoio, lo potete sfogliare così e leggerlo, oppure srotolare, farlo aprire a fisarmonica, come giustamente ha detto Marta Cagnola, e i bambini si divertono a vedere queste illustrazioni e questa graphic novel, Il Vermo. Mi piace molto questo vermo. L'ultimo Rizzoli, consiglio... non avevo detto da chi è pubblicato, da Rizzoli, scusatemi. L'ultimo consiglio è quello del cacciatore di libri, lo dico, poi comincerà la bella stagione, uno si vuole anche tenere i podcast magari da ascoltare in spiaggia, va bene, ma quando vai in onda alla radio, che uno l'accende e la sente quando vai in onda? E allora, se proprio vuoi sentire la radio, il sabato mattina alle 6:30 per i mattinieri e alle 22 per tutti gli altri, e il podcast quando volete. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci. Il sabato del villaggio. Beh, ci siamo. Questa musica a chi ha più di qualche anno, ma non è detto, perché ci sono anche fan più recenti, più giovani, che hanno scoperto questa serie televisiva qualche annetto dopo. Ebbene, tutti loro avranno riconosciuto fin dalle prime note. Di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di Twin Peaks. È il momento del ritorno di Twin Peaks. Allora, il comunicato stampa è arrivato qualche minuto fa. Allora, in esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti, nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 dalle 3 del mattino, quindi preparatevi, bisogna fare notte, i primi due episodi in versione originale sottotitolata su Sky Atlantic HD, e poi ogni venerdì alle 21:15 sempre su Sky Atlantic HD dal 26 maggio. Ma è talmente atteso questo ritorno di Twin Peaks che questo weekend a Milano c'è, cioè, Piano City Milano, questo evento dedicato appunto al pianoforte un po' in tanti luoghi di tutta la città. Weekend 20-21 maggio, quindi oggi e domani, una, due giorni di concerti basati sulle più celebri colonne sonore delle serie TV e in particolare di Twin Peaks. Twin Peaks Experience oggi dalle 17:30, quindi tra meno di un'ora, allo spazio base a Milano. Insomma, se lo conoscete sapete dov'è, sono gli spazi dell'area ex Ansaldo. Insomma, una esecuzione dal vivo della colonna sonora di Twin Peaks e poi fino alle 4:30 del mattino la proiezione dell'intera prima stagione. Per gli appassionati è un momento molto delicato. Allora, noi ci colleghiamo con un grande esperto, ma anche un grande appassionato. Allora, lui è uno degli autori, io ho in mano uno dei due volumi, il mio primo e anche il mio secondo dizionario delle serie TV cult, che è quello edito da Becco Giallo, ne abbiamo già parlato, è veramente un volume, anzi sono due volumi molto molto utili e anche molto carini. Ma è talmente appassionato di questa serie televisiva che nel 2014 ha creato davidlynch.it, il sito italiano più seguito sul regista di Twin Peaks. Chissà come sta vivendo questa attesa Matteo Marino. Buongiorno Matteo. E buon pomeriggio Marta, e buon pomeriggio. Come stai vivendo? In ascolto, vecchi e nuovi. Esatto, prima, vecchi e nuovi, appunto. Della prima ora e dell'ultimissima ora. Perché mica appunto c'erano tutti 25 anni fa a guardarla. Esatto, io c'avevo 14 anni, ero piccolino, ma c'ero. E anch'io mi ricordo qualcosa. Sì. Allora, la vita di spettatore sicuramente. Com'è questa attesa? Allora, l'attesa è ormai ha raggiunto dei livelli di entusiasmo grandissimi. Ci sono feste in tutta Italia. Tu citavi giustamente quella di oggi pomeriggio a Milano, a Piano City. L'altro giorno a Milano sono stato a un convegno proprio alla Yulm, dove si parlava proprio dell'attesa di che cosa ci aspettiamo dalla terza stagione di Twin Peaks. Ieri sono stato al Twin Peaks Day di Sassari, quindi in tutta Italia si sta mobilitando, non è Italia, è Hollywood, è Los Angeles, è Twin Peaks, il mondo è Twin Peaks. Allora, che cosa ci aspettiamo? Matteo, che cosa ci aspettiamo? Allora, ci aspettiamo innanzitutto un'evoluzione di quella storia bellissima che ci ha raccontato Lynch ormai 27 anni fa. In mezzo Lynch ci ha fatto altri capolavori, ci ha fatto Mulholland Drive, ci ha fatto il Land Empire. Quindi sarà, come ha detto Kyle MacLachlan ieri sul Red Carpet, perché anzi questa notte alle 2 ora italiana c'è stata la premiera a Los Angeles. Io ho visto le foto sul sito davidlynch.it, appunto. Esatto, chi vuole andare, chi si è perso, chi non ha fatto nottata, chi non è stato alle 2 di notte a vederlo, sul sito davidlynch.it può trovare proprio l'intero video. Dura quasi 50 minuti e c'è un giornalista preparatissimo che fermava gli attori e faceva delle domande, tra cui Kyle MacLachlan, che ha detto: non sarà un Twin Peaks per nostalgici, sarà una storia ambientata a Twin Peaks, nuova, accadrà di nuovo, happening again, come dicono, ma differentemente, diversamente. Questo io mi aspetto, cioè... ti ricordi quando uscì Fuoco cammina con me? Il certo, prequel, esatto, certo. Il prequel della serie, che però uscì dopo la fine della seconda stagione, e un po' all'epoca quando uscì deluse un po' tanti, perché si aspettavano una cosa diversa. Oggi è completamente rivalutato, viene considerato un altro capolavoro linciano, forse precorreva un po' troppo i tempi. Beh, ecco, io mi aspetto che questo Twin Peaks in un certo qual modo ci deluda, cioè nel senso non vorrei, e con me sono d'accordo molti linciani che seguono la pagina, che seguono il gruppo Facebook, cioè vorremmo che ci non facesse un museo del fan service, che ci desse delle sorprese come sa fare lui, che ci portasse di nuovo in un mondo meraviglioso e strano, di cui parlare ancora per 25 anni. Noi abbiamo assistito a un tira e molla di David Lynch, lo faccio, non lo faccio, fino all'ultimo non ci credevamo. E guarda Marta, io l'ho vissuta proprio in prima fila con tutti i fan italiani, perché quando Kimmy Robertson, che è l'interprete di Lucy Moran, che starà anche nel nuovo Twin Peaks, sul suo Facebook scrisse Showtime, fai schifo. Ci prese un colpo perché sì. Infatti poco dopo Lynch disse: guardate, io purtroppo non lo faccio più perché Showtime non mi dà il budget che mi serve per fare il Twin Peaks che vorrei. Mobilitazione mondiale, i primi a mobilitarsi, incredibile, il livello di lealtà, fedeltà e amore che Lynch sa ispirare. È stato proprio il cast storico, senza neanche sapere se sarebbe o meno tornato, e molti di loro tornano nella nuova stagione. Il cast storico si mobilitò con un hashtag Save Twin Peaks, quindi dichiarazioni, cose per farlo ritornare. In Italia che cosa facciamo? Ci viene in mente di partecipare a questo evento mediatico facendo un video con tutte foto che mi arrivano da tutta Italia dei fan che si fanno una fotografia col televisore, con lo schermo con scritto directed by David Lynch e con un cartello scritto a mano con scritto no one else, nessun altro, volevamo il servizio di David Lynch. Questa cosa ci ha avuto un successo oltre le aspettative e il cast storico l'ha rimessa in circolo anche online, e la cosa bellissima è che quando Lynch tornò, poi finalmente trovarono l'accordo, in realtà fu solo un mese, ma a noi sembrarono tipo 5 anni, una cosa di questo genere, perché tu devi pensare che abbiamo aspettato 25 anni la nuova stagione, non ce la potevano togliere dopo che ci hanno detto che la facevano. Sì, dai. E Lee Robertson ci mandò proprio un video per ringraziare i fan italiani, quindi sempre su davidlynch.it se lo cercate, Kim Robertson ringrazia i fan italiani, proprio a noi ci mandò quel video e ci ha detto grazie, Twin Peaks è tornato anche grazie a voi. Quindi un piccolo merito, piccolino, della mobilitazione mondiale ce l'hanno i fan italiani, che quindi possiamo vedere Twin Peaks nuovo con maggiore orgoglio. Ah, che meraviglia. Matteo, grande guest star, ho letto di Monica Bellucci, ho letto di Laura Dern, Amanda Seyfried, Naomi Watts, ho letto persino di Richard Chamberlain, è vero? Sì, assolutamente. Lynch ha mandato fuori una lista di 217 nomi con una mossa di marketing geniale come quelle che fa lui, senza i nomi dei personaggi. Quindi ci sono dei nomi giganti, c'è anche Tim Roth, c'è Naomi Watts, c'è tantissimi, e non sappiamo se faranno una parte grande o una parte piccola. Beh. Tra l'altro qualcuno spera che ci sia o la fantomatica Diane, ma chi la interpreterà? Certo. E la vedremo la Diane, ricordo che è praticamente la segretaria a cui Kyle MacLachlan del Cooper detta con nel registratore tutti i suoi pensieri. Qualcuno pensa che esista, qualcuno pensa che non esista, e forse Twin Peaks 3 sarà il momento in cui scopriremo se ci sarà un'attrice che le darà finalmente un volto, e magari sarà una delle attrici famosissime del caso. Ti chiedo solo come vedrai Twin Peaks nella notte tra domenica e lunedì. Allora, come lo vedrò? Mm-hmm. Mi connetterò in diretta e mi vedrò con le cuffie in completo silenzio da solo. Ah, in completo silenzio da solo, ok. Sì, perché okay. Lynch ha consigliato proprio di vederlo magari con una bella tazza di caffè fumante davanti, e per noi italiani è ancora meglio, perché chi lo farà si alzerà alle tre di notte. E chi vuole, come mossa propedeutica, si può leggere il capitolo che dedico completamente a Twin Peaks sul mio primo dizionario delle serie TV Cult. Infatti, perché Twin Peaks è nel primo dizionario. Nel primo dizionario, sì, è nel primo dizionario, perché il primo, nel sottotitolo, c'è proprio da Twin Peaks a Big Bang Theory, perché proprio volevo sottolineare il fatto che Twin Peaks, per vari motivi, è stato proprio uno spartiacque della serialità. E ce ne accorgiamo perché ne stiamo parlando ancora adesso a distanza di 27 anni, insomma. Mentre bene, nel secondo sì. Ci sono, anche se nel secondo lo cito spesso, Twin Peaks, per esempio nella prima pagina mi fa ridere un po' questa cosa, perché il secondo dizionario ha come sottotitolo Da Beverly Hills a The Walking Dead. A The Walking Dead, ma nella prima pagina mi è venuto spontaneo fare un collegamento completamente folle tra Beverly Hills e Twin Peaks. Non solo perché condividono lo stesso anno, ma perché parlano anche Twin Peaks parla di un liceo, solo che lì la reginetta veniva ammazzata e avvolta nella plastica, mentre a Beverly Hills si parla di tutt'altro. Però in un certo qual modo, nei loro ambiti, con le dovute differenze qualitative, sono due pietre miliari. Diciamo che è un po' la televisione che diventava adulta, Twin Peaks, 1990, e la televisione che reinventava la propria adolescenza, Beverly Hills, 1990. Fantastico, fantastico. Io mi ricordo tutte le ragazzine vestite da cadavere di Laura Palmer quell'anno a Carnevale. Grazie a Matteo Marino, davidlynch.it. Grazie Matteo, ti chiederemo come l'hai trovato. Guarda, volentieri, ci faremo una chiacchierata anche su questo. Grazie, però lo devo metabolizzare. Grazie Matteo, noi ci ritroviamo tra poco. Dopo il traffico abbiamo un ospite straordinario. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Il sabato del villaggio. Replicare giorni preferiti, se dovrò ascoltarti lo farò. Rimarrà soltanto l'odio e cuori indeboliti, se dovrò fidarmi fallirò. Allora, io sono già pazza di lui. È uscito fresco da Amici ed è già in giro con un disco pazzesco. È piccolino, è un ragazzino, ma è fantastico. Ciao Thomas. Buongiorno. Allora, voglio sapere che effetto ti fa tutto questo, perché tu hai 17 anni, sei rimasto chiuso a chiave per un po' ad Amici, sì. E poi sei uscito. E adesso cosa succede? Beh, l'impatto è stato forte, anche perché dopo Amici si sono aperte un sacco di opportunità che spero di saper cogliere al meglio per continuare, ecco, a lavorare a questa mia passione, ecco. Io a 17 anni ancora quasi giocavo con le bambole, invece questi ragazzi a 17 anni sono pazzeschi. Ti chiedono tutti i selfie, ti chiedono tutti foto. Che impressione ti fa? Beh, fa piacere perché comunque sia vuol dire che all'interno del mio percorso ho lasciato qualcosa di buono, ecco, e la gente ha apprezzato, mi fa piacere. Senti, la competizione come l'hai vissuta? Visto che poi alla fine è una gara, la gara c'è ancora, quindi insomma non sei arrivato proprio fino in fondo con grandi proteste il pubblico. No, come ho detto, sì, fa piacere, assolutamente, mi ha fatto piacere vedere la reazione del pubblico e la considerazione che ha probabilmente di me, del mio percorso, però sono anche felice dei traguardi raggiunti da un punto di vista personale. Penso che per quanto riguarda la competizione, forse l'unica persona con cui ero in competizione era me stesso, nel senso, era una sfida continua per cercare di crescere e migliorare. Ma com'era la vita lì dentro? Ti svegliavi la mattina e pensavi soltanto che quel giorno dovevi fare quello che ti piaceva, dovevi suonare, cantare, ballare. Sì, rispetto alla vita dello studente che invece ogni tanto devi fare delle cose che, insomma... Ma tu vai anche a scuola? Sì, andavo a scuola, poi quest'anno vabbè ho smesso per questo impegno, però sì, andavo a scuola, facevo il liceo musicale. Ah, certo, ma quindi c'è sempre un liceo musicale lì che ti aspetta da qualche parte. Vabbè, dai, ci penseremo, sono occasioni da prendere quando ci sono. Hai lavorato con Stash? Avete fatto gara di ciuffo? Perché tu, insomma, ti difendi bene, lui pure. Sì, dai, diciamo che... Non so chi vince al momento, Ad Amici vi siete confrontati con tanti artisti importanti, insomma è ovvio che poi alla fine si parla sempre di Morgan, perché lui è quello che ha creato un po' più di così, di baruffa, però tu gli piacevi molto, Ma io sinceramente sì, mi sono trovato bene con lui, penso che lui avrebbe... È una bella medaglia questa, Io penso che lui avrebbe potuto insegnarci molto, infatti il top sarebbe stato poter continuare sia con lui che con Emma, perché certo. Entrambi avevano... un sacco di esperienza, tante cose diverse però da insegnarci, ecco. E quindi sarebbe stato interessante, però comunque del lavoro fatto con lui, anche se è durato poco, mi rimarrà sempre. Ma poi c'è 17 anni, c'è mille occasioni ancora per incrociare comunque, il suo... E poi penso che comunque anche se sono uscito, tutto il percorso che ho fatto là dentro, penso che mi servirà molto per il percorso che sto iniziando adesso, qua fuori. Percorso che ad esempio passa per l'incontrare anche i tuoi coetanei, le persone che ti hanno seguito in questo periodo, appunto un sacco di in store, domenica a Milano, quindi immagino il delirio. Che cosa cercano di carpire da te? Cioè, lo sai che poi diventate un po' degli esempi da seguire, dei modelli da imitare, le frasi delle canzoni scritte sui diari, sui social. Che impressione ti fa? Nel giro di 6 mesi passi dall'altra parte della barricata, in questo senso, dai. È vero, no, diciamo che sì, mi ha fatto molto piacere quando sono tornato. Ho letto anche alcuni commenti, alcune persone che magari mi hanno definito appunto come un esempio per i ragazzi che magari alla mia età, ma anche più piccoli, e devono inseguire un loro sogno in generale, che non per forza nel mondo della musica, ma proprio in generale. È un onore poter essere, ad esempio, per tanti altri ragazzi come me, ecco. Ma a casa ci sei tornato? A casa sì. E lì com'è stato? E lì com'è stato? Beh, allora, sono arrivato il giorno dopo la puntata e c'erano tipo 20 persone tra familiari, le persone più strette che c'erano prima e ci sono anche adesso. Avevano organizzato una festicciola in taverna, dopo 10 minuti è arrivato a casa, sono partito, ho preso le cose e sono andato in produzione a registrare. No, vabbè, dai, però... adesso per un po' dovrà essere così, perché sì, devi lavorare. Adesso bisogna lavorare. Insomma, ci sarà tempo tra un po', adesso no, bisogna far fruttare questo bisogna momento spremere, bellissimo, bravo, sì, bravo, poi se no si spremono i 17enni, chi dobbiamo spremere? Cavoli, adesso tocca a voi essere un po' spremuti. Se tu dovessi raccontare i tuoi gusti e le tue così, i tuoi modelli musicali a una persona che non avesse seguito Amici, che ti sente magari per la prima volta, dice in gamba sto ragazzo, che cosa gli puoi spiegare? Ma per quanto riguarda gli artisti a cui mi ispiro, mi ispiro al grande Michael Jackson, ragazzi, Stevie Wonder, Lionel Richie, e poi di cantanti moderni, per esempio Bruno Mars o un Justin Bieber. Una roba da niente, una roba così, da nulla. Thomas, cosa fai? Continui a guardarlo, amici? Cioè, lo guardi? Sono... Che effetto ti do? Sì, beh, in questa puntata la guardo volentieri. Voglio vedere la finale, voglio vedere come si aggiocano i miei compagni. Chi vince? Diciamo la sua voce. Chi vince la finale? Non lo so. Non lo sai? Forse per me potrebbero vincere tutti. Lo so, perché poi quando gli amici, sei lì... Sì, esatto. Dai, se devo tifare qualcuno, probabilmente tifo Seba. Perché è la persona con cui ho legato di più. E poi quando balla è un artista. Cioè, no, è vero. Ed è puro l'anima, sia sul palco che come persona, veramente. Ce ne sono poche, ma sono stato fortunato a incontrarlo. Bello, bello, mi piace. E poi, insomma, potreste fare anche delle cose belle insieme. Sì, vi vedo sì. Fare delle cose così, dei progetti. Allora, progetti per l'immediato futuro, quindi un sacco di in store. Esatto. Adesso vi posto anche un po' di date, che così le trovate. E poi, come la vedi la prossima estate? Ti hanno già detto potremmo fare questo oppure stai navigando ancora vista? Ci sono un po' di impegni in ballo, qualche progettino, però dai, vediamo come va. Dai, vabbè, ci aggiorniamo più avanti. Allora, intanto adesso, vabbè, normalità, ne abbiamo sentito un pezzetto e vabbè, va fortissimo. Oggi più che mai, uscito il 19 maggio. Sono molto contenta, veramente trovo che questi ragazzi siano in gambissima, fighissimi, 17 anni ragazzi, ero ancora lì con le bambole. Grandissimo Thomas, in bocca al lupo, un in bocca al lupo enorme, grazie per essere stato con noi.